aspettative ci sono sempre, esattamente come c'erano l'anno scorso per COP26. Poi il fatto che siano il numero 26, la numero 27, già qualcosa dovrebbero dirci. Però questo non toglie ovviamente che le aspettative dovrebbero esserci, perché esattamente come quando l'Italia va ai mondiali, no? Cioè, magari fa schifo, però le aspettative ci sono sempre, perché sono i mondiali, l'evento è molto importante, giustamente ci sono le aspettative. Esattamente come per i mondiali, però l'Italia non è che sta giocando insieme alle altre nazioni sviluppate un grandissimo ruolo negli ultimi anni, e nemmeno, insomma, di recente. Non sappiamo cosa combinerà, come andrà il governo. In realtà il fronte, diciamo così, grosso è tra le nazioni più sviluppate, che da COP26, ma insomma anche alle COP precedenti, promettono molto e fanno molto poco. Quindi c'era una frase del telefilm Malcolm, no, che diceva: non avevo aspettative ma sono già deluso, e che l'anno scorso aveva in parte rappresentato COP26. Poi capiamoci, questi incontri è comunque essenziale che ci siano, perché a questi incontri ci sono nazioni minuscole o persone o enti o associazioni, oppure come li chiamiamo a Fridays for Future, come stiamo provando a diffondere questo termine, MAPA, cioè Most Affected People and Areas, cioè le persone colpite già ora molto di più dalla crisi climatica, che solo lì a volte trovano un palcoscenico internazionale per parlare, no? Quindi è importante che ci siano questi incontri. Il punto è che questi incontri di fatto prendono atto di quello che poi le politiche nazionali a cui sono arrivate, no? Quindi di fatto è un prendere atto di quello che c'è già fuori. Quindi non è lì che si risolvono le cose, è a casa, si fanno i compiti e poi là li si portano e si dice: ok, abbiamo fatto i compiti, siamo andati avanti di tot, no? Quindi da un lato non è in COP che dobbiamo riporre troppe queste aspettative, quindi nei prossimi 12 giorni, che tra l'altro saranno in Egitto, che è una nazione che esporta un sacco di combustibili fossili, che ha un rispetto dei diritti umani inesistente, quindi sappiamo che non è nemmeno il palcoscenico migliore, anzi forse tra i peggiori, per poter portare avanti queste trattative. Negli ultimi giorni si discuteva molto: è necessaria la libertà di parola per avere anche giustizia climatica? E secondo noi sì, cioè è fondamentale poter manifestare, poter chiedere di aumentare gli impegni, altrimenti evidentemente manca un qualche tassello, perché se qualcosa è stato fatto di più negli ultimi anni è solo perché la gente è scesa in strada a protestare e a chiedere di agire. Abbiamo visto come ad esempio Greta Thunberg, ma anche altre attivisti e in realtà diserteranno questo incontro proprio per il mancato rispetto dei diritti umani in Egitto. Sì, noi in Italia ovviamente conosciamo molto bene la situazione dei diritti umani in Egitto a causa della terribile storia di Giulio Regeni, ma insomma tante altre nazioni la conoscono per altrettante orribili storie, e insomma sono circa 60.000 i prigionieri politici attualmente in Egitto sotto il regime di Al-Sisi, e appunto i temi non possono essere separati. Poi è ovvio che la COP andrà avanti lo stesso, ma per capirci hanno organizzato una finta piazza per manifestare mezza nel deserto dietro un'autostrada, dove verranno ripresi a qualche ora del giorno. Cioè capite la follia di questa cosa qua, c'è una cosa assolutamente orchestrata affinché non possano esserci voci discordanti, non solo sulla questione dei diritti ma anche sulle questioni meramente climatiche, che non sono, ribadisco, staccate per nulla da quelle dei diritti. Cioè il grosso tema di questa COP, di cui bisognerebbe parlare tanto, è il tema dei fondi loss and damage, cioè i fondi di chi ha rotto il clima, cioè i risarcimenti per chi si ritrova i danni in casa, a chi è che tocca pagarli? E capite bene che è un tema di disuguaglianza a livello mondiale, no? Il clima sta diventando la nuova piattaforma da cui poi far partire tutti i vari temi, perché è una storia di disuguaglianze, è una storia di sfruttamento a livello mondiale dei paesi in generale del nord verso i paesi del sud, e i nodi stanno venendo al pettine. Richiedere che questa cosa qua sia messa al centro, questione dei diritti, dell'uguaglianza, è fondamentale. Quindi insomma capisco bene la scelta di chi vuole non andarci, capisco, devo dire, anche la scelta di chi vuole invece andarci a raccontare, perché comunque è importante sapere cosa accade o cosa non accade, ecco, quindi per poter aumentare la pressione, per far sentire il fiato sul collo a chi dovrebbe prendere queste decisioni e attualmente non le sta prendendo. Notizia di ieri di Reuters: l'Italia è una delle 10 nazioni di questo gruppetto di nazioni europee che vorrebbe smettere di investire in combustibili fossili all'estero, e c'è l'Italia che dice: no, ma togliete i termini tipo raffinazione, togliete i termini trasporto, perché ovviamente ha interessi specifici per farlo, e quindi sta addirittura rallentando le altre nazioni europee che vorrebbero prendere impegni un po' più attivi. Quindi ecco, sapere queste cose è utile, perché tocca a noi fare pressione qui. A proposito di compiti a casa, il segretario generale dell'ONU Guterres ieri ha lamentato il fatto che le emissioni stanno aumentando in realtà, invece che diminuire del 45% al 2030. Abbiamo visto come anche l'Europa e l'Italia in particolare sta fronteggiando la crisi energetica puntando ancora una volta sul gas, semplicemente cambiando fornitori. Quindi insomma i compiti a casa l'Italia non li sta facendo bene. Decisamente no, anche perché è ancora più assurdo di fronte alla crisi energetica come non si voglia cambiare dipendenza e si continui a mantenere lo spacciatore, andiamo a prendere il gas dall'Algeria, tra l'altro molto alleato della Russia, chiusa parentesi, e invece non si vuole voglia andare contro la reale soluzione. Qua è ancora una volta la dimostrazione di come il problema non sia tecnologico, abbiamo tutte le tecnologie a disposizione, ma come il problema sia meramente politico, cioè si sta scegliendo di non andare su quella che è la soluzione migliore dal punto di vista ambientale, e lo sappiamo perché riducono le emissioni, le energie rinnovabili, dal punto di vista strategico, geopolitico, perché nessuno ti può chiudere i rubinetti del sole e del vento, e anche dal punto di vista economico, perché sono quelli che hanno più posti di lavoro e c'è una filiera industriale dove vengono fatte, dove vengono montate, e che hanno molta più economicità, sono molto più economiche rispetto alle fonti fossili, perché il gas che prenderemo dagli Stati Uniti lo pagheremo 5 volte tanto rispetto all'adorato gas russo. Ecco, quindi non c'è nessuna ragione, è semplicemente conservazione dello status quo.